Allora, adesso cerchiamo la chiave giusta. Mamma mia. Prendi questa. Ecco. Ah, Maria, prego, entrate. Questo è Giacomo il VII. Nel 1553 lavoro il maestro da Innsbruck, si vede sopra il Castelbeseno. Tutti sono antenati di Conte di Mazia, il gigante, Ulrico il penultimo, Gaudenzio l'ultimo, Giacomo il VI. Mio padre è Osvaldo, mia madre Possi Federigotti. Io sono nato nel 1946, mio padre è nato nel 1899, vecchio. Io sono il primo figlio, ma dopo 19 anni di matrimonio sono venuto io. In tedesco si dice un Wunder. La storia della nostra famiglia non comincia in questa regione. Comincia nel Trentino, origine della Stiria, ma il primo che è venuto è stato il nonno di Giacomo il V, che è stato presidente del Trentino. Allora, prima che sono arrivato, i Trapp a Castelcora sono stato a Castelbeseno. E dopo, nel 1520, dopo la morte di Gaudenzio, l'ultimo conte di Mazia, la sua sorella ha sposato un Giacomo Trapp, il padre di lui, Giacomo il VI, e così la famiglia Trapp è venuta qui sopra nel 1520. Invece a Cadonazzo, a Beseno, sono stato nel 1464, allora circa 50 anni prima. Io amo il Trentino, io amo i Trentini e io amo Castelbeseno. Ho sempre stato interessato di fare i contatti con nelle vecchie proprietà del Trentino, con la Mangabalga Palazzo, con Caldonazzo, con Beseno. Io sono l'ultimo membro della famiglia in storia che ha questo contatto. Per me è il contatto per la storia della famiglia, ma io penso che nella prossima generazione non esiste più questa. Si deve fare la storia. Questa è la vita, non di fare, si lavora come un commerciante, allora compro lì, vendo lì, fai così. Io non sono commerciante, mio padre, mio nonno neanche, hanno lasciato Beseno alla provincia, perché è lasciato alla nostra famiglia, Beseno, Castelbeseno. Beseno è due volte, anche tre volte, con tutta la parte della piazza del torneo, con tutte le mura esterne. E tre volte Castelcora. Castelcora è grande con i muri, ma Beseno tre volte di Castelcora. Si deve dire che mio padre era in età di mio nonno quando sono nato, con 49 anni. Quando mio figlio adesso ha 32 anni, io sono 60. Allora è molto diverso. Anche le idee sono diverse e questo è molto importante di sapere. Per un imprenditore, per un contadino e per un conte. E io ho lasciato tutte le decisioni a mio figlio. Vai tu avanti. Io faccio amministratore. Nel periodo di mio zio, che è morto nell'83, è stato un po' diverso. Lui fino all'ultimo anno, ultimo mese, ha fatto tutto a sé. Non mi ha lasciato qualche vista nell'amministrazione. E questa è la differenza tra le generazioni prima. Le generazioni prima, l'imprenditore, fino alla sua morte, è stato, dico, io sono il capo. E tu figlio, con 50 anni, tu sei procurista, non di più. Adesso fatto, finito. Adesso viene la prossima generazione che fa questo lavoro. Questo è molto importante. Tu devi dire alla gioventù, non gioventù di 20 anni, ma la gioventù di 30, 32 anni, 35 anni, che l'hanno sposato, c'è un nipote, ti lasci, tu fai avanti. Non è semplice di fare, ma è giusto di fare, si deve fare, altrimenti non funziona. preso in mano questo castello. Tanto felice, molto lavoro, qualche volta non si dorma perché sono problemi lì, problemi là. La gente che pensa che i conti con i castelli sono ricchi, non è la verità. Non si può vendere, non esiste qualcuno che compra una casa così, nessuno. Quando tu prendi una proprietà come Castelcora, potevi dirti, allora io sono per mia vita amministratore. Non è un gioco di venire qua e di sentire che devo pagare le tasse, che ha problemi di bla bla. Non è possibile di stare lì e dire io sono il conte. Bene, niente, non funziona. Tu devi fare il tuo mestiere, io il mio mestiere, mio padre il suo. Perché sto anche mio figlio, anche mio nipote. Non è semplice di fare, ma è giusto di fare. Si deve fare. Tutti devono lavorare nel suo mestiere, di fare avanti con la tradizione della famiglia. Questa è una tipica una cosa così. Questo è molto importante. Ho fatto la conoscenza di mia moglie, contessa Arnoncourt della Stiria, e dopo siamo stati a Vienna. E dopo sono stato a Innsbruck, ho lavorato a Londra, sono ritornato in Austria, dopo sono andato a Bolzano, Trento, e dopo sono ritornato a Monaco e adesso sono ritornato a Vienna. Una figlia ha sposato un romano, stanno a Barcellona, un'altra figlia sta a Londra, il figlio sta a Zurigo, Trento, Passau, Coira e Salisburgo. Augsburgo, finito. Allora siamo europei. Tu devi stare aperto per la gente. Io sono aperto, un po' più aperto. Così. Ma la patria è sempre la patria. Vuol dire. Sono molto conservativo. Qualche famiglia vanno via e dopo perdono la sua personalità e la sua patria. Come gli americani che vanno dall'est all'ovest e cercano così. Per i miei figli, sempre, la patria era il vecchio Tirolo. Trentino, Alto Adige, Tirolo. Questa è la nostra patria, vecchia Austria. Questo è bello, questa è la tradizione. Perché adesso ho fatto, finito. Adesso viene la prossima generazione che fa questo lavoro. Famiglia, mestiere e la tradizione qui a Corva.